Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, benvenuti a Ferry Boat. Si chiude oggi una grande edizione di Fai la cosa giusta, che quest'anno ha, fra le altre iniziative, avuto una caratteristica di affrontare il tema dell'alimentazione con una sezione Mangia come parli. Ce ne parla il responsabile di questa sezione, Fausto Trucillo. Buongiorno a tutti. Fai la cosa giusta ogni anno dedica una sezione speciale tra le 12 sezioni della fiera a un tema che ci sta particolarmente a cuore. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarlo all'alimentazione proprio perché per rimarcare l'importanza che per noi ha il consumo critico del cibo. Quindi si è parlato di cibo biologico, biodinamico, di filiera corta, di chilometro zero, cooperative sociali, ma anche cooperative carcerarie che trovano proprio nell'agricoltura un modo di riscatto sociale. C'è un tema, oltre che di, come dire, di qualità nella filiera, anche di spreco. Noi come tutti i paesi occidentali cosiddetti ricchi sprechiamo un sacco di cibo che sarebbe vitale per i paesi poveri del mondo. Assolutamente, come in tutte le cose lo spreco è sempre la prima cosa che si potrebbe fare per migliorare il nostro modo di consumare. Eliminare gli sprechi è l'ABC della sostenibilità, lo vediamo col risparmio energetico, lo possiamo vedere anche con il risparmio con l'utilizzo meglio alcuni alimenti. Qual è stata la reazione del pubblico rispetto a questa proposta che avete fatto? L'avete comunque percepita una reazione di attenzione? Il pubblico è sempre più interessato, lo vediamo nella vita di tutti i giorni, vedendo come sono cresciuti per esempio i farmers market milanesi, degli appuntamenti dove si può incontrare tutti i giorni il produttore diretto. L'abbiamo visto anche a Fare la cosa giusta, dove il pubblico è sempre crescente e la soddisfazione pure. C'è indubbiamente, per chi ci ascolta, per chi magari non conosce bene Fare la cosa giusta, è stata una crescita esponenziale in questi... Che edizione è di Fare la cosa giusta, quella del 2011? Questa è l'ottava edizione. Siamo partiti da una piccola festa di produttori diretti, siamo arrivati a una fiera che ormai è su due padiglioni di Fiera Milano City, per cui è una cosa molto importante. E anche dal punto di vista, diciamo così, dello sviluppo delle imprese collegate ai temi della sostenibilità, voi avete visto che in questi 8 anni c'è stata una crescita esponenziale? Assolutamente sì, non sono più soltanto le realtà più legate magari all'associazionismo oppure no profit, ma anche aziende vere e proprie, dice. Anche aziende vere e proprie. Quest'anno abbiamo avuto Philips e Peugeot, per esempio, che non sono due aziende da poco, che si sono confrontate sui nostri temi. Bene, grazie e complimenti per Fai la cosa giusta. Ogni anno 500.000 bambini perdono la vista a causa di una grave carenza di vitamina A. Vitamina A che è contenuta in Multicentrum Junior, che è un prodotto venduto in farmacia. In partnership con Vitamina Angels, che è un'organizzazione no profit, si è raggiunto un accordo assolutamente positivo dal punto di vista delle conseguenze per questi poveri bambini. Ogni confezione venduta di Multicentrum, infatti, darà diritto a una dose annuale di vitamina A e quindi si conta di arrivare a salvare la vista a 200.000 bambini. Giovedì 31 marzo è il termine ultimo per presentare il modello EAS. Il modello EAS è quello che consente alle associazioni no profit di accedere ad un regime fiscale agevolato. Vi ricordiamo che va presentato, ripeto, entro giovedì e va inviato per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Grazie per averci seguito, vi ricordo che ferrybot@radio24.it è l'indirizzo mail a cui inviare le vostre segnalazioni e che Ferrybot va in onda il sabato alle 6.50 e alle 13.55, mentre la domenica, l'appuntamento della settimana, alle 6.50 e alle 14. In redazione Anita Panizia, grazie alla regia di Carmelo Lauricella. A risentirci.